lacrime scendono piano dal cuore, un fiume lontano. Non c'è vento, solo il silenzio che taglia il buio senza consenso. Lacrime, lacrime dal cuore cadono giù come pioggia d'amore. Chi le ferma, chi può capire un cuore rotto che non sa mentire. Ogni goccia ricordo che crema, il tempo passa, ma non c'è un tema. Raccolgo pezzi, li tengo stretti, come un rotto che non sa mentire. Ogni goccia ricordo che trema, il tempo passa, ma non c'è un tema. Raccolgo pezzi, li tengo stretti, come un puzzle di sogni imperfetti. Ma se il sole tornerà, chi lo sa, chi lo sa. Lacrime, lacrime dal cuore cadono giù come pioggia d'amore, pioggia d'amore. Chi le ferma, chi può capire un cuore rotto che non sa mentire. Ma se il sole tornerà, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Lacrime, lacrime dal cuore cadono giù come pioggia d'amore. Chi le ferma, chi può capire un cuore rotto che non sa mentire. E se il cielo si spezzerà tra le nuvole la verità, c'è un respiro che non si arrende, una scintilla che non si spende. Lacrime, lacrime dal cuore cadono giù come pioggia d'amore. Chi le ferma, chi può capire un cuore rotto che non sa mentire. E se il sole tornerà, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. E se il sole tornerà, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. E se il cielo si spezzerà tra le nuvole la verità, c'è un respiro che non si arrende, una scintilla che non si spegne.